È ispirato a una storia vera, il lungo racconto di Elizabeth Gaskell, Lois la strega, che la Scuola delle Donne vuole proporre di seguito. L'autrice, una delle grandi scrittrici vittoriane che già abbiamo ospitato con il romanzo Ruth, è una paladina delle donne. Cominciò a scrivere tardi, verso i 40 anni, e solo con un obiettivo terapeutico: elaborare la morte dell'unico figlio maschio. La sua attività di scrittrice inaspettatamente le diede soldi e fama, sebbene la moralità vittoriana spesso si scagliasse contro il suo stare ardentemente dalla parte delle donne, anche di quelle perdute. Nella seconda parte della sua carriera, Elizabeth cominciò a usare la scrittura come forma di denuncia sociale della situazione delle donne e dei bambini verso i quali ebbe sempre una particolare attenzione. Cominciò a scrivere documentandosi su fatti storici e realtà sociali di cui trattava. Il marito la sostenne e la difese fino alla fine dai violenti attacchi che la morale perbenista vittoriana, secondo la quale era sempre la donna colpevole, le infliggeva. Anche Lois la strega è, come dicevamo, ispirato a fatti storici, ossia la sanguinosa caccia alle streghe di Salem, oggi villaggio di Danvers, in Massachusetts, nei sobborghi di Boston, dove alla fine del Seicento si svolse una delle più efferate e sanguinose cacce alle streghe che la storia ricordi. La figura di Lois è ispirata alla vicenda di una delle donne processate, Rebecca Nurse, una rispettabilissima artigiana ingiustamente accusata, ma che non riuscì a sfuggire alle maglie del perverso meccanismo di accuse che infestarono l'America e il mondo intero in quell'epoca. Ognuno poteva denunciare chi che sia e anche senza prove, di solito per non sbagliare, la persona veniva giustiziata, convinti come si era che se moriva era colpevole, altrimenti sarebbe successo qualcosa che l'avrebbe tenuta in vita e questo avrebbe significato che non era colpevole. Furono per la stragrande maggioranza, come sappiamo, donne che finirono nelle maglie della caccia alle streghe. Ma spesso venivano denunciate solo per vendetta o antipatia o perché qualcuno voleva impossessarsi delle loro terre. E fu appunto quest'ultimo motivo la causa delle accuse a Rebecca Nurse da parte della famiglia confinante, i Putnam, con i quali c'erano state aspre contese per i terreni. Le due figlie degli accusatori finsero convulsioni nell'aula del processo e accusarono Rebecca di tormentarle coi suoi malefici. La donna fu impiccata. Elizabeth Gaskell, donna empatica, madre amorevole di quattro figlie femmine e femminista ante litteram, non poté non dare uno sguardo alla orribile realtà di una delle più tragicamente famose stragi di donne della storia umana. E la storia di Rebecca Nurse la colpì proprio a causa del fatto che la accusata era veramente irreprensibile e che fu assurdamente, ingiustamente uccisa senza che nessuno potesse fare nulla per aiutarla. Tanta era la violenza che si scatenò all'epoca sulle donne, anche su quelle che non erano né erboriste né levatrici, ma semplicemente stavano sulla terra dove qualcun altro aveva messo gli occhi. Il testo che proponiamo, Lois e la strega, fa parte dell'antologia Storie di bambine, di donne e di streghe, edito da Giunti, tradotto da Marisa Sestito. Da Devana, buon ascolto.